No, infatti, beh, posso intanto recuperare due concetti prima di passare la parola a Elisa. È molto interessante, secondo me, questa attenzione che hai focalizzato sul tipo di contesto in cui viene recepito Fanon. Se da una parte il contesto americano e dall'altra il contesto europeo, o comunque il contesto di paesi del terzo mondo in lotta che comunque hanno uno schema di riferimento come quello europeo. Questa cosa secondo me è particolarmente interessante in quanto io ho letto nel modello quando parlavi del modello di società che immaginava Fanon, molto di quello che è stato c'è una parte della progettualità politica di un'organizzazione come il Fronte Liberazione Nazionale in Algeria. Il Fronte di Liberazione Nazionale, oltre che la guerra della rivoluzione algerina, oltre che essere stata un po' il modello di riferimento delle lotte coloniali, è anche una delle lotte per l'indipendenza più sanguinose avvenute nel periodo degli anni 60, non considerando l'esperienza dell'Angola e del Mozambico, perché successive con un percorso leggermente diverso. È molto interessante in quanto l'FLN come organizzazione aveva da una parte un fortissimo sentimento nazionale, un'idea anche di popolo ben radicata, ma dallo stesso tempo manteneva, perlomeno inizialmente, un modello che era sostanzialmente quello europeo, cioè un rapporto fra popolo e partito. L'FLN poi dopo adotterà anche, a dipendenza ottenuta, anche il modello del partito unico nell'organizzazione dello Stato, in cui si aveva l'ambizione anche di mantenere un dialogo all'interno di una prospettiva socialista per quello che riguardava anche la costruzione dell'economia, una prospettiva che potesse mettere in dialogo popolo algerino, arabo, fra virgolette, e popolazione europea che in parte si voleva che restasse sul suolo algerino a dipendenza ottenuta. La cosa poi nella pratica non è andata esattamente così, però è interessante notare come per un certo periodo l'FLN mantenne un dialogo aperto con l'Europa. Cioè, faccio qui riferimento al fatto che, ad esempio, nei primi anni 70, Marché, segretario del Partito Comunista Francese, tenne dei corsi, dei seminari ai quadri dell'FLN, cioè si voleva mantenere aperta a questo tipo di prospettiva. Discorso a parte è anche per la storia politica stessa, quello americano. Gli Stati Uniti hanno avuto una storia politica e sociale molto differente rispetto a quella europea, per molti caratteri. La storia stessa della classe operaia americana è diversa dalla storia della classe operaia europea. Vi è una modalità di organizzazione del conflitto all'interno del mondo del lavoro che è differente. Vi è un'organizzazione sociale e politica differente. Il modello partito in senso europeo con difficoltà sfonda la società americana e anche le organizzazioni dei lavoratori politicamente connotate sono state per un periodo maggiormente diffuse fra la classe operaia emigrata. E immagino che questo tipo di percorso possa aver avuto anche un'influenza nell'organizzazione dei movimenti politici di emancipazione del mondo afroamericano.